Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Questa sera parliamo della certificazione energetica degli edifici, che ormai è divenuta obbligatoria in molte circostanze e che dovrebbe, e non uso a caso il condizionale, vedremo poi perché, dovrebbe fotografare l'efficienza energetica di appartamenti, villette, eccetera, eccetera. Ne parliamo con l'ingegner Franco Barosso, che è esperto di questioni energetiche e tra l'altro è uno dei padri della normativa nazionale, appunto, sulla certificazione energetica. Buonasera Barosso. Buonasera a lei. Dunque Barosso, entriamo subito in tema, le chiedo in quali casi, oltre a quello della compravendita che abbiamo già detto, è obbligatoria la certificazione energetica degli edifici? Sì, intanto premetto solo che forse dire padre è un po' troppo, ecco, sono uno di quelli che assieme a qualcun altro è dall'inizio che cura questo argomento e in particolare dall'uscita della legge 1091 che già prevedeva la certificazione. Ciò premesso, la certificazione è obbligatoria in tante in maniera diversa a seconda della regione in cui andiamo a esercitare, ma in generale possiamo dire, oltre che in ogni atto di compravendita è obbligatoria in ogni atto di locazione, sì, è obbligatoria ove sia necessario adire agli incentivi del cosiddetto 55%. Quindi se uno deve fare una ristrutturazione e vuole avere questi incentivi, per esempio, deve prima fare la certificazione energetica. Direi prima no, ma dopo sì. La qualificazione o certificazione, dipende dai casi, per avere il 55% si fa a fine lavori. E poi in ogni caso in cui c'è una nuova edificazione o una ristrutturazione abbastanza significativa. Ecco, potremmo, senza andare a parlare di tutte le eccezioni. Ecco, qualche eccezione però, se è importante, ce la dica. Mi pare sulle finestre, per esempio, non serva. Cioè, se uno deve mettere i doppi vetri, non serve che faccia una certificazione energetica. Le eccezioni, in effetti, sono svariate e, ripeto, anche qua dipendono molto dalle regioni. Se parliamo del 55%, la certificazione o qualificazione, perché c'è ancora anche questo dubbio, serve praticamente solo più negli interventi integrati e per l'isolamento. Nel caso di soluzione caldaia, nel caso di pannelli solari, nel caso di soluzioni finestre, la certificazione non è più obbligatoria. Senta, che informazioni troviamo dentro a questo documento? Quando ce lo consegnano, che cosa c'è scritto? Dentro alla cosiddetta ACE, l'attestato di certificazione energetica, c'è una serie di parametri, di indicazioni generali, dal luogo dove è costruito, all'anno di fabbricazione, all'anno di ristrutturazione, ai dati catastali, passando poi ai dati fisici dell'appartamento, quindi superficie, città in cui si costruisce, quindi gradi giorno della città in cui si costruisce. Andiamo su quelli energetici. E poi i dati energetici, cioè la cosiddetta energia primaria, la cosiddetta QH. Parliamo in parole povere di quello che potremmo definire, per farci capire da tutti, un consumo standard, cioè non il consumo reale di quell'edificio, che dipende anche dall'uso, se venisse utilizzato in condizioni standard, cioè 180 giorni di riscaldamento, 24 ore su 24, senza nessuno spegnimento. Quindi parliamo fondamentalmente della classe energetica, classe A, classe B, classe C. È una terminologia che sta entrando in fondo anche nell'uso corrente. Sta entrando come è entrata prima per frigoriferi e per lavatrici. In fondo il significato è un po' lo stesso. La classe è basata su un parametro che è il massimo che è consentito consumare in Italia nel 2010, si chiama energia primaria limite del 2010, chi consuma esattamente questa quantità è in classe C, chi consuma il 75% è in classe B, chi consuma il 50% o meno in classe A, A+, eccetera, eccetera. Chi consuma di più di questo limite del 2010 sarà in classe D, E, F, G. Dove peraltro si trovano moltissime case edificate in Italia. Ecco, si esprime. La maggioranza delle case del costruito in Italia sono nelle ultime classi. Ecco, d'accordo. Questo parametro si esprime, diciamolo così, insomma, a titolo informativo, in kilowattora metro quadrato. Kilowattora per metro quadrato di appartamento. Dunque, dicevamo che lei ha contribuito alla stesura della normativa nazionale, però poi questa normativa nazionale è finita in mano alle regioni e sembra che non ne sia venuto fuori granché di buono. Lei è molto critico. Io sono assolutamente molto critico perché non conosco regioni che a mio avviso ad oggi abbiano legiferato meglio di quello che ha fatto lo Stato italiano. Ecco, questo mi sembra doveroso dirlo, nel senso che se è giusto che la Costituzione permette alle regioni di legiferare, mi sembra che a posteriori i dati che possiamo dedurre da queste normative regionali non sono granché soddisfacenti. Ecco, ma andiamo sul punto, cos'è che non funziona? Beh, intanto la confusione, perché il committente che è proprietario di un alloggio al di qua e al di là del Ticino si trova una stessa casa classificata in classe diversa e non capisce molto, certo. Ha ragione a non capire, perché il parametro dovrebbe essere quello. Dopodiché abbiamo anche programmi che alcune regioni ci obbligano a utilizzare che non sono il massimo, cioè che sono foriere di errori mica indifferenti, parliamo di 30, 40, 50, 60%, non proprio di... Programmi, lei dice programmi software che vengono utilizzati? Programmi software, sì signore. Va bene, grazie Barosso. Noi ci dobbiamo fermare qui, ma evidentemente torneremo domani sull'argomento per cercare di capire cos'altro non funziona nella certificazione energetica degli edifici ed eventualmente se c'è un modo per il cittadino di prendere qualche precauzione in merito. A domani!